Investire informati. Guarda qua, più ti informi, più ti confondi, direi, Mauro, perché qui sembra tutto bello, almeno fino all'altro giorno in borsa sembrava assolutamente tutto superato perché gli indici internazionali avevano ripreso a correre. Ce n'è uno, peraltro, che ha una corsa che non si arresta. Ieri a Wall Street, Apple, per esempio, che è uno dei titoli più rappresentativi del Nasdaq, l'indice della tecnologia americana, non solo corre, ma ieri sera ha sfondato i 1.500 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. È la prima società americana a superare questa soglia. Tu pensa che vale quanto questa società il PIL della Spagna? E quindi questo, insomma, ci dà la misura delle anomalie che si stanno manifestando sul mercato in questa fase. Ieri sera la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha detto: noi manteniamo i tassi praticamente a zero e li manterremo su questo livello ancora per tanto tempo, almeno fino a tutto il 2022, fino a quando l'economia non avrà almeno minimamente rialzato la testa e mostrato segnali di ripartenza dopo questa pandemia che sta lasciando veramente vittime dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico in maniera clamorosa. E quindi, insomma, come si investe in questa fase? Che dici? Potrebbe essere il tema di partenza con il nostro ospite? Guarda, io sono qui con il quaderno degli appunti praticamente. Aspetto da Lorenzo Alfieri, country head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, che mi guidi un po', perché devo dire, dottor Alfieri, questo andamento delle borse con queste, anche questi strabismi, prima grandi rialzi, economia reale però che segna il passo e anzi arretra, insomma, ci stanno confondendo parecchio a noi piccoli risparmiatori, dottor Alfieri. Sì, buongiorno a tutti. È chiaro che è una fase di alta volatilità, lo avevamo detto, e non bisogna mai dimenticarselo. Le settimane scorse effettivamente sono state positive, ma hanno, per così dire, illuso, distolto l'attenzione degli investitori dai problemi reali. Abbiamo ovviamente un'economia, le economie dei principali paesi, soprattutto dei principali paesi industrializzati, che stanno soffrendo ovviamente delle forti recessioni, o subiranno ovviamente delle forti recessioni, i dati stanno uscendo ovviamente in queste settimane. Dall'altra parte c'è stata ovviamente una manovra da parte delle principali banche centrali, importante, imponente, mai registrata prima. Quindi abbiamo due fattori che si contrappongono. Inevitabilmente gli investitori hanno guardato inizialmente nella prima fase della crisi con molta paura e preoccupazione, poi ovviamente c'è stata, come giustamente è stato correttamente detto, un forte recupero. Adesso ovviamente gli investitori tirano la linea e guardano forse con maggiore attenzione ai dati che escono e cercano evidentemente di valutare al meglio gli investimenti che hanno fatto e anche le prospettive dell'economia e delle aziende. E non la luna di nero, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Allora, Deborah, questi dati che ci hai letto della borsa, sì, diciamo, non so come dire, non ci mettono di buon umore, ecco. E vorrei capire con Lorenzo Alfieri anche questa decisione che ha preso la Fed, non tocchiamo i tassi, ma addirittura con questa previsione fino al 2022. Caspita, ma non è un po' troppo impegnativo per una banca centrale così ipotecare il futuro in una distanza così lunga? Perché siamo abituati a mercati che oramai si muovono in un senso o nell'altro con una velocità molto superiore a queste visioni su 2-3 anni. Lorenzo Alfieri. Sicuramente le banche centrali, ma non solo la Fed, stanno ovviamente adottando delle misure di ampio respiro e di medio termine. Questo per rasserenare i mercati, dare tranquillità. È chiaro che dall'altra parte ovviamente gli investitori, e stiamo vedendo queste reazioni, quando vedono la Fed, non solo la Fed ma anche la BCE, estendere il profilo temporale così a lungo, temono evidentemente che ci siano delle previsioni particolarmente negative per un periodo molto lungo. Ovviamente non è necessariamente così, abbiamo visto come i dati economici tendono anche a sorprendere in termini negativi, ma anche in termini positivi, anche con un arco di tempo molto più breve, bisogna saper filtrare anche questo tipo di atteggiamento. Abbiamo visto Alfieri, appunto lo commentavo all'inizio, correggo anche un'affermazione impropria che ho rilasciato prima, il PIL della Spagna naturalmente vale 1.500 miliardi, in realtà la Banca Mondiale lo esprime in dollari questo valore, ma a parte questo, insomma, quello che volevamo dire non 1.500 euro, ma parliamo appunto di miliardi di euro o dollari, avevamo fatto questo parallelo appunto con la capitalizzazione di Apple, euro più dollaro meno. Ma il punto è, Alfieri, abbiamo visto che la tecnologia continua a correre e per le persone che però investono secondo i soliti criteri di raggiungimento dei propri obiettivi di vita e quant'altro, ci si deve guardare attorno, diversificare al massimo il proprio portafoglio e quindi seguire la regola di sempre del risparmio e dell'investimento, ma qua sembra che l'unica opzione in questo momento sia la tecnologia americana. È davvero così o c'è qualche altro tema interessante, insomma, che chiaramente noi adesso non riusciamo a vedere, un po' perché tutti abbiamo delle preoccupazioni economiche, quindi magari abbiamo un po' la mente meno lucida per monitorare e fare una ricognizione quotidiana dell'andamento dei mercati finanziari. Voi invece per lavoro dovete farla, quindi oltre a questa tecnologia che sembra inarrestabile, dove altro sono altre opportunità di investimento, almeno quelle che manifestano qualche promessa? Sì, è giusto, ma molto corretto dire che in questa fase sembra quasi dopo la fase critica della pandemia e anche la prima fase iniziale della crisi economica che solo unicamente la tecnologia sia uscita vincente da questa fase così critica. Invece non è così, non ci dimentichiamo anche ad esempio la biofarmaceutica, la biotecnologia, ma anche ad esempio altri segmenti che riguardano i software e gli applicativi, ma anche ad esempio il web che ha avuto un enorme sviluppo, quindi vendite online. Ci sono anche dei segmenti molto più tradizionali che ovviamente possono emergere o emergeranno sicuramente come vittoriosi. Ritornando alla tecnologia, poi ci si sta focalizzando solo sulla tecnologia americana, non dimentichiamoci che ci sono grandi campioni anche in Europa e anche e soprattutto nei mercati emergenti, quindi se si vuole avvicinare, ci si vuole avvicinare alla tecnologia, ricordarsi di guardarlo in uno spettro globale e poi, come ho detto prima, non guardare solo alla tecnologia come settore vincente, ma guardare anche alcuni trend di medio-lungo termine, ad esempio penso all'invecchiamento che porterà con sé tutta una serie di settori, di categorie molto interessanti di investimento che ovviamente dureranno, essendo trend di lungo termine, in un arco temporale molto ampio. Debora, a me colpisce molto questo aumento di liquidità sui conti correnti perché sì. Lo comprendiamo naturalmente, è una vocazione difensiva, però immagino che per chi opera nel settore come Lorenzo Alfieri questo sia anche un po' un momento per andare così a spiegare che ci possono essere delle opportunità, io credo almeno, e anche diversi ascoltatori che ci stanno scrivendo 349-238-6666 per SMS e WhatsApp in qualche modo fanno emergere questa disponibilità, questa liquidità a disposizione che vorrebbero, come dire, collocare al meglio. Allora non so se possiamo indicare dei settori, già Lorenzo Alfieri parlava della tecnologia e non solo tecnologia statunitense, biotecnologia. Ci sono poi settori forse che sono particolarmente puniti in questa fase, ma forse troppo puniti in questa fase. È così, Alfieri? Sicuramente non dobbiamo dimenticarci che comunque ci sono alcuni settori che rimangono sempre fondamentali e comunque ciclici, sì, ma che comunque recupereranno. Ecco, quando ci troviamo ovviamente di fronte a settori tradizionali, come ad esempio il leisure, intrattenimento o quant'altro che hanno perso il 70-80%, evidentemente anche in questo caso ci sono degli eccessi. Ma direi su questo fronte di valutare attentamente gli investimenti, sicuramente ci sono delle aree interessanti, anche aree geografiche, in questo momento l'Asia e i paesi emergenti dell'Asia sembrano uscire vincenti da questa prima fase di crisi. ma come dicevo all'inizio, rimarrà molto la volatilità. E quindi direi due sono i fattori, ingredienti fondamentali. Uno, diversificazione, sia per settore che per area geografica, e due, entrata graduale. Quindi bisogna entrare gradualmente nei propri investimenti, perché la volatilità darà spazio per ulteriori correzioni che potrebbero essere ulteriori punti di entrata interessanti. Ma lei che cosa ne pensa di quello che è successo in questi mesi, Alfieri? Comunque, lo considerate anche voi investitori professionali anomalo questo andamento così schizofrenico dei mercati finanziari, che sembrano non voler accettare la caduta libera dell'economia in generale, e quindi si sono affrettati a recuperare tutto, ad aggrapparsi alle iniziative imponenti delle banche centrali? E questo, secondo lei, è, come dire, comunque un atteggiamento che pagheremo prima o poi, magari con un storno del mercato più forte, più duraturo, e che quindi leggerà in maniera più accurata il calo dell'economia, il calo verticale dell'economia? Ma la risposta a questa domanda purtroppo sta nell'eccezionalità dell'evento. Ci siamo trovati perciò di fronte a un evento assolutamente imprevedibile, per cui sono state prese iniziative assolutamente straordinarie. Le conseguenze immediate, come abbiamo visto, è stato un pronto recupero dei mercati finanziari di fronte all'ingente liquidità che è stata emessa dalle banche centrali, ma dall'altra parte, come ho detto all'inizio, ci si deve scontrare con la realtà dei fatti, quindi ad esempio con la crescita, o meglio la decrescita economica, e i risultati aziendali. Per questo motivo c'è molta volatilità, molta inquietudine, molta incertezza se innanzitutto queste misure saranno realmente serviranno per rilanciare le economie e le aziende dopo un evento straordinario, e soprattutto chi riuscirà ad emergere dopo una crisi così violenta e imprevedibile. Tutto questo è esattamente quello che sta accadendo, e quindi è anche di difficile interpretazione l'andamento in alcuni momenti, come in questi giorni, completamente irrazionale dei mercati finanziari. E per questo concludo dicendo: attenzione a come si entra e a quando si entra. È meglio entrare in modo graduale. Allora, dovete rispondere, accettiamo risposte solo e soltanto se chiamate il numero verde 800 24 00 24. Questa è la regola del domandone, è sempre stato così tutti i giovedì. La domanda di questo giovedì, la domandona di questo giovedì, è abbastanza semplice. Vi abbiamo detto che ieri Apple ha raggiunto un livello record di capitalizzazione, perché ha addirittura superato la soglia record di quanti miliardi di dollari? Più tardi vi daremo anche la risposta, ascolteremo le vostre risposte. 800 24 00 24. Deborah. Sì, no, tra l'altro ricordando che naturalmente noi siamo sempre molto generosi con il riconoscimento per chi risponde bene. In questo periodo i riconoscimenti viaggiano un po' a rallentatore per le questioni che sapete, ma abbiamo tenuto da parte tutti i nominativi e gli indirizzi delle persone che si sono aggiudicati appunto il nostro quizzezzone degli ultimi mesi, e quindi li ricompenseremo per la loro pazienza molto presto. Tornerei sui mercati finanziari, perché ci dicono sempre, caro Mauro, tu lo sai, e anche su questo punto ha molto insistito poco fa Lorenzo Alfieri, che dobbiamo diversificare, non mettere tutte le uova nello stesso paniere, e molti di noi, quelli che hanno magari una pazienza e quindi possono stare nel cosiddetto lungo termine, hanno puntato negli ultimi anni, lo fanno sempre coloro che conoscono i criteri dell'investimento sul mercato azionario, nelle aree asiatiche, che però sono molto interessanti da molti punti di vista da qualche settimana a questa parte, un po' perché l'epicentro della pandemia è stata la Cina, o quantomeno non l'epicentro, il luogo da dove tutto è partito, e quindi un po' ci siamo impermaliti nei confronti di quest'area. Questo atteggiamento un po' di come dire disturbo verso quest'area, Trump l'ha manifestato molto chiaramente, potrebbe ripartire anche una nuova litigata all'insegna della rimodulazione dei dazi. E quindi Alfieri, tutto questo per arrivare a chiederlo. Comunque l'Asia è un'area che non dovrebbe mai mancare in un portafoglio ben diversificato, anche di un piccolo risparmiatore. È ancora così? Secondo lei dobbiamo rivedere i nostri criteri di investimento verso queste aree che hanno ancora delle prospettive di crescita, appunto, e delle potenzialità molto rilevanti? Sicuramente è un'area molto interessante, però approccerei an�anche l'Asia, sia i paesi sviluppati, ad esempio la Corea del Sud, sia quelli cosiddetti in via di sviluppo, ne cito uno, il Vietnam, ma non solo, ovviamente in modo molto coscienzioso, cioè diversificazione, come dicevo prima, e visione di medio-lungo termine. I paesi asiatici sicuramente hanno le chance per entrare in questa fase post-crisi con, direi, un abbrivio molto molto interessante, molto sostenuto. Tra l'altro non ci dimentichiamo che la Cina caratterizza proprio e determina ovviamente anche una crescita molto forte di tutti i paesi intorno a lei. Quindi la Cina sta recuperando, recupererà, e questo potrà alimentare ovviamente la crescita dei paesi asiatici, ma, come dicevo prima, con una visione di medio-lungo termine. Non si può pensare di entrare appunto in quest'area per qualche mese, poi sperando ovviamente di avere un pronto risultato. Deborah, qualche cosa sul debito degli stati, che è ovviamente in crescita, ma più in generale, però vediamolo magari dal punto di vista dell'investitore, cioè conviene, è un buon momento per il reddito fisso, ce lo chiedono in diversi, qualcuno appunto ricorda anche il prossimo debutto del BTP di cui abbiamo scritto e parlato nei giorni scorsi, questo BTP futura di cui ancora non sappiamo tutte le caratteristiche, ma più in generale tutti gli stati ovviamente hanno una necessità di fondi, quindi emettere nuovo debito per fronteggiare le questioni legate alla pandemia. E com'è la situazione del reddito fisso, Alfieri? Allora, diciamo, per quanto riguarda il reddito fisso, chiaramente la situazione è diciamo ambivalente. Abbiamo da una parte ovviamente i titoli governativi che, per quanto riguarda i paesi periferici europei, sembrano essere molto interessanti, soprattutto dopo la manovra direi molto eclatante della Banca Centrale, che ovviamente ha promesso e esteso gli acquisti per un arco di tempo molto lungo. Dall'altra parte ci sono però i cosiddetti titoli corporate, e su questo fronte bisogna fare molta attenzione, perché andiamo verso una fase complicata, difficile, in cui ci saranno aziende che usciranno vincenti, ma aziende ovviamente che potranno avere grossi problemi, e questo ovviamente influisce anche, ad esempio, sull'esposizione debitoria, quindi sulle cosiddette. Quindi potranno trovarsi nella incapacità di eventualmente essere solvibili su queste obbligazioni che emettono, questo ci sta dicendo Alfieri, per questo bisogna approcciare con cautela questo mercato? Sicuramente, nel senso, non ci dimentichiamo che, non lo diciamo noi ma lo dicono tutti gli esperti, il default rate, cioè il cosiddetto tasso di fallimento, che è molto basso attualmente, ricordiamo intorno all'1,5-2, potrebbe salire intorno al 5-6%, soprattutto in alcuni settori. Quindi con molta cautela guardare sugli investimenti in obbligazioni emesse da aziende. Per esempio, noi prediligevamo solo le cosiddette investment grade, cioè quelle aziende che hanno un rating molto molto alto. Ecco, su questo settore sicuramente ci sono delle interessanti opportunità, mentre bisogna guardare con molta attenzione a quelle definite high yield, cioè quelle emissioni obbligazionarie di aziende con un rating molto basso. Per cosa ne è dei trend che prima di tutto questo erano molto guardati, molto, molto di moda, verrebbe da dire? I famosi criteri ESG, quindi sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, governance, eccetera, sono ancora degli indicatori validi per scegliere un investimento piuttosto che un altro, Alfieri? Diciamo che ESG, cioè i criteri di rispetto di determinate regole, valgono sempre e comunque. Si può dire che un'azienda è buona, una buona azienda è gestita bene non solo perché fa ottimi risultati aziendali, ma soprattutto si rispetta pienamente questi criteri. Quindi diciamo che dopo questa forte crisi sicuramente ESG rappresenta ancora un trend, ripeto, ineluttabile, verso cui sicuramente tutti gli imprenditori e le aziende nell'essere condotte dovranno aspirare. Cara Deborah, abbiamo già diversi ascoltatori, ascoltatores premunt, mi verrebbe da dire, per partecipare al nostro domandone. Allora, abbiamo chiesto, ieri Apple ha raggiunto un livello record di capitalizzazione e ha così portato anche un record indice del Nasdaq. Quale soglia di capitalizzazione ha sfondato Apple? Sentiamo Giovanni da Novara. Qual è la soglia sfondata da Apple? Buongiorno. Buongiorno. $1.5 miliardi di dollari. No, è poco. Purtroppo è poco. È molto di più. Sentiamo Pietro da Brescia, cosa ci dice? Buongiorno, Pietro. Buongiorno anche agli ascoltatori. Il livello è 1.500 miliardi di dollari e, come faceva notare la Deborah, superiore al PIL dell'intera Spagna. Oh, ma grazie, perché infatti. Grazie a Pietro che ci ha chiamato da Brescia, peccato per Giovanni che invece si chiamava da Novara. Io ringrazio Lorenzo Alfieri che anche oggi, anche questo giovedì, è tornato a spiegarci, a fare luce sull'andamento dei mercati finanziari, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Grazie, dottor Alfieri. Grazie a voi, buona giornata a tutti. E Deborah, noi torniamo domani. Vediamo. Torniamo domani, buona. Sì, io vorrei tanto parlare dell'IMU però, perché l'IMU proprio ti preme. L'IMU mi preoccupa. Se non c'hai un tema fiscale ogni 2 o 3 giorni mi vai in astinenza e io te lo concedo molto volentieri. Grazie. A domani. Buona giornata.